9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 26 di gennaio ed è una trasmissione rivolta soprattutto a tutti voi automobilisti, naturalmente a tutti i cittadini, ma soprattutto agli automobilisti. Perché? Che cosa parliamo oggi? Grazie alla regia Fabio Contadori e ad Alessandro Marco Turno in redazione, perché ringraziarli sempre alla fine, oggi ringrazio all'inizio della trasmissione perché sono preziosi per questa trasmissione. Parliamo del condono delle multe, perché per una norma del disegno di legge anticrisi dello scorso mese di luglio è stata introdotta la possibilità per tutti i comuni, sono i comuni a decidere, di approvare una sanatoria per tutte le multe relative a violazioni del codice della strada, con verbali relativi ai verbali emessi entro il 31 dicembre del 2004, anche se poi questi verbali erano stati messi a ruolo, cioè se erano arrivati ad atti ingiuntivi. Tutte le multe fino al 31 dicembre 2004 i comuni possono decidere di condonarvele e possono decidere di darvi la possibilità di estinguere il vostro debito, se vi è stata elevata una contestazione, pagando semplicemente il minimo della sanzione pecuniaria amministrativa per ogni singola norma violata, con un 4% che va all'agente della riscossione, neanche il 9%. E siccome qui si sta trattando di multe che negli anni hanno visto moltiplicare ovviamente la sanzione applicata e alzarsi tantissimo il cumulo degli interessi legali dovuti, diciamo, la cosa dovrebbe essere molto molto conveniente, naturalmente dal punto di vista dell'automobilista sanzionato. Stiamo parlando di un totale di verbali, se si somma tutti i comuni interessati e si guardano i dati dell'elevazione di contestazioni comunicate al Ministero degli Interni, beh, insomma, molto considerevole, quasi 1,5 miliardi di euro. Se non che cosa sta succedendo? Succede, andando a monitorare i primi mesi di decisioni da che questa norma è entrata in vigore, qualche cosa di abbastanza anomalo, o meglio, qualche cosa che rispecchia anche su meccanismi di condono il paradosso delle multe in Italia per quello che riguarda l'efficienza della riscossione della macchina delle multe stesse. In sintesi, qual è l'effetto di questo paradosso? È che se vivete in un comune, siete residenti in un comune o comunque è in quel comune che vi è stata elevata una contestazione, vi è stato fatto il verbale, un comune particolarmente efficiente nel meccanismo della riscossione delle multe, e questo comune di solito in Italia vuol dire che prende molti soldi dalle multe per alimentare il proprio bilancio ed è molto bravo ad avere una percentuale elevata di accertamento e soprattutto di riscossione sull'accertato negli anni, bene, allora state sicuri. Quel comune che è abituato a stangare parecchio e a incassare molto, il condono quasi sempre ha deciso di non applicarlo. Se invece vivete, siete residente oppure passavate in un comune che vi ha elevato una sanzione, ma quel comune ha una bassa percentuale di efficienza nell'elevazione delle contestazioni e soprattutto nell'incassare poi le contestazioni negli anni successivi, cioè una bassa percentuale di riscosso sull'accertato, beh, quasi certamente quel comune o ha già deliberato o sta deliberando comunque di applicare il condono. E però l'effetto di questa Italia è un po' paradossale, per così dire. E se andate a vedere, c'è l'elenco di tutti i comuni italiani, Sole 24 Ore lo ha pubblicato, ha pubblicato i dati del 2007, fonte Ministero dell'Interno. Se andate sul sito e digitate www.ilsole24ore.com/speciali/multe/index, voi troverete regione per regione e poi regione per regione, provincia per provincia, tutti i comuni italiani con tanto di popolazione e introiti da multe. Ed è qualche cosa che vale la pena di fare, perché in Italia veramente il divario percentuale delle multe che ci vengono contestate e soprattutto degli introiti è totalmente paradossale. Farò nel corso della trasmissione alcuni esempi, perché adesso vi vado a presentare gli ospiti, però tanto per avere un ordine di grandezza, in Piemonte, con 4 milioni e 300 mila abitanti e popolazione residente, stiamo parlando dei dati degli introiti 2007, con quei 4 milioni e 300 mila abitanti gli introiti da multe sono 115 milioni di euro. In Puglia 4 milioni e 100 mila abitanti, quindi stiamo parlando di 200 mila solo residenti in meno, rispetto ai 115 milioni del Piemonte la Puglia si ferma a 33 milioni. Voi capite che si tratta di un divario di ordine proporzionale incredibile, no? Abruzzi 1 milione 300 mila residenti, 13 milioni gli introiti da multe. Basilicata 600 mila residenti, 6 milioni introiti da multe, quindi più o meno è la stessa percentuale degli Abruzzi. Però se dovessimo applicare questo criterio, voi capite bene che se con 1 milione 300 mila abitanti in Abruzzo si incassano 13 milioni, allora in quel caso in Toscana, dove gli abitanti sono praticamente il doppio, sono 3 milioni e qualche cosa, si dovrebbero incassare 26, 27, 30 milioni, e invece in Toscana se ne incassano 152 di milioni. Quindi in Italia la graduatoria delle multe elevate, soprattutto incassate, in altre parole la percentuale di introiti pubblici del comune da multe rispetto al totale delle tasse che pagate, varia dallo 0%, lo 0% che riguarda quasi due comuni su tre del centro-sud, quasi due comuni su tre del centro-sud, al 500% delle tasse incassate, che è il record rappresentato dal comune di Vinzaglio nel Novarese, che non so, o ha un'amministrazione con le SS per le strade, oppure chi abita a Vinzaglio è praticamente un delinquente totale, patentato, è meglio che voi la macchina non la prendiate, perché veramente se riuscite a pagare il 500% di tasse solo di multe al vostro comune, c'è qualche cosa che non funziona. Però vi ripeto, la geografia dell'Italia è una geografia da pazzi, dove capisco solo una cosa: chi è bravo sindaco, bravo amministratore a perseguire meglio gli automobilisti, è chiaro che diventerà sempre più bravo, ma dall'altra parte ci sono due terzi d'Italia e chi non è bravo per niente, primo, la fa fare franca a tutte le violazioni, secondo, fa contare su un grandissimo senso dell'impunità a tutti quelli che circolano da quelle parti. Ma che cavolo, perdonatemi, di paese è mai questo? Allora, su queste domande, poi dicono che la legge è uguale per tutti, ma c'è scritto in tutte le lauree di tribunale, ma quando si parla di tasse a me non sembra mai in questo paese. Detto questo, tanto per fare un po' il provocatore, chi sono gli ospiti di oggi? Iniziamo con Maurizio Leo, assessore al bilancio del Comune di Roma, che come componente anche della Commissione Bilancio della Camera ha avuto parte semplicemente nell'introduzione di questo meccanismo legislativo in base al quale i comuni stanno decidendo, e io capisco anche che poi i comuni, e il caso di Roma per esempio, che diciamo hanno un problema di maggiore arretrato e di minor percentuale di riscosso sull'accertato, perché vedo che qui dai dati di Roma sullo storico c'è una percentuale che non supera il 48% di riscosso sull'accertato, è ovvio che in quei grandi comuni magari convenga di più. Buongiorno Leo. Buongiorno dottor Giannino. Poi abbiamo Guido Castelli, che è il sindaco di Ascoli ed è il delegato dell'ANCI per la mobilità e i trasporti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei dottor Giannino. Ecco, prima di Leo, che è parte in causa perché ha proposto la norma, e capisco anche l'interesse dell'amministrazione di Roma, io chiedo a lei, che deve rappresentare un po' tutti i comuni d'Italia, questa che a me sembra paradossale discrasia per cui c'è chi è bravo a stangare e stanga incredibilmente di più e chi è meno bravo a riscuotere e che quindi garantisce l'impunità, lei li deve rappresentare tutti, quindi come fa a nome di tutti a dirmi che è una cosa giusta? Prego. E pluribus unum, dicevano gli antichi. Quindi... Però quello sta sul dollaro, che è una cosa seria rispetto all'Italia. Esatto, per questo invocare il dollaro spero e auspico possa, come dire, irrorare di buon senso le mie parole. Diciamo che quello che è la situazione del cosiddetto condono, che io non lo chiamerei condono, in realtà esprime una situazione che è abbastanza consueta e nota. Non la vogliamo giustificare, ma in realtà sul fatto di questa vicenda collegata al decreto 7809 dove pesa più di quello che si può immaginare proprio tutto un meccanismo patologico che ha operato negli anni proprio il procedimento di riscossione. Lo dirà sicuramente l'onorevole Leo, ma in realtà le ragioni che hanno indotto primariamente a emanare quella norma sono riferite alla situazione obiettivamente paradossale di vedersi spesso e volentieri notificati anche raffiche di avvisi di accertamento con tanto tempo di ritardo, così da indurre, non per furbata di qualcuno, non per insipienza del cittadino, neanche per renitenza al pagamento, multe con sovrattasse importanti che, come nel caso di Roma, hanno prodotto insomma situazioni obiettivamente abbastanza drammatiche. Ora io voglio dire questo, che allora innanzitutto quindi lei dice una misura più che altro dovuta a evitare le tante cartelle pazze che si erano accumulate. Diciamo che c'è stata una componente fortissima in questo senso, tant'è vero che da questo punto di vista io non parlerei neanche di condono, perché è bene dare la giusta e corretta interpretazione alla norma, ma anche qualificazione dei termini che la norma usa. La sanzione viene, sia pure al minimo, esattamente corrisposta. C'è un aggio minore di quello che del 9% che lei in qualche misura ha accettato, e ci sono anche gli obblighi relativi al pagamento degli oneri e comunque al costo di notifica. Quindi io non parlerei di un condono in senso stretto, parlerei di una condizione che, chiariamoci bene, attiene comunque a una patologia del sistema. Nessuno vuol dire che questa situazione in qualche modo può essere descritta come normale, ma accertata l'esistenza di una patologia che, come nel caso di Roma, aveva portato per disfunzioni del meccanismo esattivo a certe note vicende di veramente raffiche, l'ho chiamate prima, di multe e contestazioni, di contestazioni postume, ha indotto in qualche misura il legislatore a prendere atto di questa situazione. Che poi evidentemente ci siano delle tantissime comunità locali in cui queste patologie non si sono verificate è perfettamente normale, però io credo che per dare la giusta valutazione, lo dico senza ipocrisia, a questa vicenda è necessario partire dal presupposto che spesso e volentieri non è per colpa del cittadino che si paga in ritardo, ma anche perché obiettivamente l'amministrazione fatica a mettere in campo tutta la sequenza procedimentale in tempi utili per non da evitare questo iniziamento. Ma signor sindaco, non dipende molto anche dal fatto che tutto questo accumularsi dipende dal fatto che i comuni, col taglio dei trasferimenti per le esigenze di finanza pubblica, in questi anni ci stanno andando con la mano sempre più pesante sugli accertamenti e le multe, perché si legge di incrementi di introiti dei comuni che sono francamente di che grattarsi il capo. Gli italiani non saranno proprio bravi a rispettare la legge, ma se di anno in anno talvolta gli introiti aumentano del 100, 200, 300% in 3 anni, c'è qualcosa che non funziona. Che qualcosa non funzioni è sicuramente vero, ma che a non funzionare sia il comune, io questa è un'interpretazione che respingo, e lo faccio sempre al netto di quelle che possono essere le contraddizioni di quel comune o di quell'altro. Però c'è un punto, sicuramente quelle che sono le difficoltà economiche hanno portato non tanto all'aumento delle multe quanto, e questo lo posso dire anche come delegato ANCI, all'esigenza di mettere in efficienza il meccanismo di riscossione. Questo è uno di quegli aspetti che per esempio fa da sfondo alla misura del decreto 78, ma c'è di più. Ieri ne parlava anche il Sole 24 Ore, in alcune realtà locali non si è mosso l'amministratore tanto per aumentare i budget o rendere più virtuose le proprie casse, quanto perché è sempre maggiore la consapevolezza che la sicurezza stradale, che il rispetto della regola, che in qualche modo l'infrazione stradale afferisca a un modo di pensare la città che oggi richiede più regole. Del resto lei stesso giustamente lanciava un grido di dolore nei confronti dell'Italia dei furbi. Allora vediamola anche da questo punto ma di no, vista. No, ma per carità, io dico solo che ci sono circa 25 capoluoghi italiani, vogliamo dire quali sono? Diciamoli per essere... Cioè, sono Modena, Bergamo, Trento, Pavia, Teramo, Sassari, Nuoro, Pescara, Venezia, Barletta, Olbia, vedete che la Sardegna è molto legalitaria, eh? Imperia, Monza, Aosta, Ferrara, Padova, Ascoli Piceno, Cagliari, Trieste, Bologna, Pisa, come si vede, insomma, soprattutto centro-nord, ecco, poi c'è la Sardegna, così. Ecco, in queste che ho enumerato, la percentuale di riscossione sugli accertamenti anno per anno supera, o è uguale o supera il 100%. Cosa vuol dire? Vuol dire che in quegli anni le amministrazioni comunali, per quante multe elevano, e magari le elevano anche molte di più dell'anno precedente, incassano nello stesso esercizio almeno altrettanto, e anzi il più di quelle che vi ho enumerato incassa più del 100% di quell'anno. Adesso, a Pisa incassano il 130% rispetto all'accertato di quell'anno, sono diventati bravissimi nel meccanismo dell'esazione. Allora, in queste 25 capoluoghi qua non si scappa, non solo ci si becca l'aumento delle multe, ma il comune, siccome è efficiente, io mi levo il cappello, a questo punto col cavolo che condona niente, va avanti, come è ovvio, perché non gli conviene. Dalle altre parti, quando il meccanismo scende intorno al 60%, sì sì, ce ne sono tanti, entro il 60%, Messina, tanto per dirne una, Chieti, 70%, così, Vibo Valentia, 54%, Palermo, 46%, Roma, 49%, Reggio Calabria 51%, Cosenza 45%. Ecco, da queste parti qua invece non solo l'amministrazione evidentemente è meno brava, ma soprattutto qui ci sarà la grande convenienza a farlo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha pagato dal 2005 in avanti i verbali, come la mettiamo rispetto a chi? Perché il verbale gli è stato elevato da chi non è capace di avere un buon riscosso sull'accertato, adesso gli farà pagare molto, ma molto di meno. È ovvio che se io dovessi ricavare ciò che me ne arriva come ex automobilista, io direi a tutti di non pagare e aspettare, perché tanto, come al solito, l'inefficienza dello Stato indurrà qualcuno a fare un condono, a seconda di chi la eleva la contestazione. In altre parole, il cittadino a questo punto avrebbe un impulso ad andare nella metà dell'Italia in cui la percentuale di riscosso sull'accertato è molto bassa, in vacanza, a girare là, e a beccare molte multe, tanto mettendo in conto che di qua a X anni il condono c'è, perché loro sono inefficienti. Questo è quello che arriva a me, che sono tento ogni anno di pagare il meno possibile, lo ammetto, questo è il mio compito. Però Maurizio Leo, evidentemente il mio è un ragionamento sbagliato, però mi dica in che cosa è sbagliato, onorevole Leo. Allora, innanzitutto non è sbagliato il suo ragionamento, ma vanno chiariti alcuni elementi. Concordo pienamente con quanto diceva poc'anzi il sindaco di Ascoli. Sull'aspetto nominale, non dobbiamo chiamarlo condono, ma è un concordato. In Italia è invalso l'uso di parlare sempre di condono. Come volete. Il condono significa riduzione o dell'imposta o della contravvenzione. Qua non si riduce nulla, si paga l'intero ammontare che si sarebbe pagato nel momento in cui è stato elevato il verbale. Il problema che lei evidenziava, e che è corretto, dice perché la riscossione non funziona. Allora, dobbiamo capire innanzitutto che il comune, l'ente locale in genere, non è che riscuote direttamente, affida il servizio di riscossione a un soggetto terzo. Soggetto terzo di regola ora è Equitalia, no? Con le sue articolazioni locali. Per Roma abbiamo una società che fa parte del gruppo Equitalia ed è Gerit. Prima del 2005-2006 la riscossione veniva gestita da soggetti privati, e che cosa accadeva? Che il soggetto privato era un po', tra virgolette, negligente nella riscossione, quindi il comune, nel momento in cui trascorreva il termine previsto dalla norma e provvedeva all'iscrizione a ruolo, che detto in volgare significa trasmettere gli atti al soggetto, che un atto formale, l'atto di iscrizione a ruolo, trasmetterlo al soggetto che poi deve provvedere alla riscossione, ecco, il comune finiva il suo compito nel momento dell'iscrizione a ruolo. Poi il carteggio passava direttamente all'agente della riscossione. Se l'agente della riscossione è efficiente, provvede in tempi rapidissimi a mandare la cosiddetta cartella di pagamento, che è l'atto con il quale si intima al cittadino, al contribuente, di pagare l'ammontare contenuto nell'atto. Se invece il cittadino, un po' più l'agenzia, il soggetto che fa la riscossione, è un po' più pigro, e allora i tempi si dilatano. dilatandosi i tempi scatta tutto un meccanismo perverso di maggiorazioni, di interessi. È quello che è avvenuto a Roma, perché io mi sono attivato perché io sono un po' l'ispiratore di quella norma, come ricordava il sindaco di Ascoli. Perché se capisco bene lei ha tentato di dire, visto che non riusciamo ad acchiappargli, almeno una parte col condono, no? Col concordato, per carità, non col condono. Ma dottor Giannino, si era verificato, io parlo di Roma perché è la situazione che vivo quotidianamente, si era verificata una situazione di poco paradossale. Noi avevamo file di contribuenti, ma parlo di numeri consistenti, 200-300 mila. Pensi che i soggetti interessati al Comune di Roma da questo concordato sono i cittadini romani, 315.431. Ecco, lei si rende conto di quello che poteva accadere? Torme di cittadini andavano agli uffici di comunali, agli uffici dell'agente della riscossione, perché si erano triplicati gli ammontari che erano stati erogati originariamente. Quindi da una multa di 70 euro si era arrivati per maggiorazione e interessi a 200-300 euro. Quindi mettiamoci nei panni di un pensionato che si vede arrivare una, visto che la riscossione è diventata più efficiente con l'avvento di Equitalia, perché da mano privata è passata a mano pubblica, quindi il settore pubblico ha tutto l'interesse ad accelerare la riscossione, ha mandato tutte queste cartelle di pagamento ai cittadini romani, ma ai cittadini anche di altre realtà territoriali, e i cittadini si sono visti arrivare un ammontare assolutamente spropositato di multe, e quindi il pensionato che si vede arrivare cartelle di pagamento per 2-3 mila euro è chiaro che va in ambascia, e quindi era un problema, le dico, quasi sociale. Se non si fosse intervenuto in questo modo rischiavamo proprio Io spero che lei possa restare con l'onorevole, però quello che ci ha raccontato è la genesi, che comunque è inefficienza pubblica, la cui conseguenza resta però una totale divergenza di trattamento, di possibilità per i cittadini che hanno avuto una sanzione elevata, una contravvenzione elevata. Ed è questo quello che non mi torna, perché l'effetto incentivo resta, secondo me, paradossalmente quello di farsi i conti dove si conviene di più farsi beccare una multa. Questa è la mia opinione. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di questo condono, per carità, concordato, delle multe elevate dai comuni fino al 31 dicembre 2004, e i comuni stanno variamente esaminando se farvi pagare solo il minimo delle sanzioni, quindi non le centinaia di euro che se non avete pagato negli anni erano diventati, con un aggio che a quel punto è il minimo, il 4% per chi lo riscuote. E abbiamo visto come la geografia delle multe, delle riscossioni, delle sanzioni in Italia sia in realtà molto diversificata. Faccio ancora un esempio: la Sicilia, questi sono i dati sempre, lo ricordo, del 2007, fonte Ministero dell'Interno, la Sicilia ha 5 milioni di residenti, 5 milioni e 17 mila, e nel 2007 ha introiti da multe più o meno per 88 milioni di euro, poco di più, 88 milioni di euro. Allora, la Lombardia, che ha meno della metà dei residenti della Sicilia, Sicilia 5 milioni, la Lombardia 9 milioni e mezzo, se la Sicilia ha 88 milioni, voi che cosa pensate? Che abbia meno di 88 milioni per due, cioè meno di 170 e rotti milioni? Eh no, la Lombardia ne ha 302 milioni. Allora capite che qui la discrasia è netta, siamo ancora qui nell'ambito superiore al 100%, cioè i comuni, un po' come lo Stato, ci colpiscono e ci gravano con una forbice che annulla ogni principio costituzionale per il quale le sanzioni, i gravami, eccetera, sono uguali. Qui non c'è alcun principio di eguaglianza costituzionale, c'è un principio in cui il localismo, il federalismo, l'autonomismo, chiamatelo come volete, e cioè anche la diversa legittima decisione del comune in merito a chi affidare il meccanismo di riscossione, si traduce in una incapacità più o meno elevata di riscuotere, in un incentivo ancor maggiore magari a sguinzagliare ausiliari del traffico per stangare tutto lo stangabile, visto che poco si riesce a incassare, almeno si alza così la percentuale di chi ci casca nel pagare subito. Ma l'effetto paradossale è che chi è stato meno efficiente negli anni ha più incentivo a fare multe discutibili e a sparare del mucchio, ma l'effetto paradossale per voi che siete in automobile, se sapete fare di conto, è guardare bene dove l'avete presa, guardare bene sulla base di questa graduatoria che vi ho detto, e in due casi su tre non pagare, aspettare, perché come si vede ci sarà una convenienza da parte del comune inefficiente piuttosto che mettere in conto gli anni, se non avete pagato, anche se vi arrivano cartelle che vi fanno tremare le vene e i polsi, in cui loro non riescono a incassarle, chiedervi scusa e umilmente abbassare le pretese, come sempre quando lo Stato cialtrone è costretto a dover dire: per carità, scusate l'ennesima mia sintesi che mi scalda molto. Allora, abbiamo tra gli ospiti, ora che si sono collegati, Roberto Di Piazza, che è sindaco di Trieste, che rappresenta invece quella parte d'Italia che è efficiente, che quindi questo ragionamento non lo fa. Signor sindaco, voi come vi siete regolati rispetto al condono per carità concordato? Buongiorno dottore e a tutti i suoi ascoltatori. Noi non abbiamo questo problema perché, adesso non mi ricordo i dati, ma mi sembra che a Trieste siamo vicino al 100% di riscossione, mi sembra che a Reggio Calabria era sul 3% di riscossione. Trieste, le posso dire che lei è superiore al 100%, esatto, cioè lei riscuote nello stesso esercizio, però, per via dell'efficacia sul pregresso, più di quello che eleva nell'anno. Allora volevo dirle che bisogna essere seri in questi paesi, o almeno dobbiamo cominciare a diventare seri, perché quello che diceva lei è giusto. Se diciamo ai cittadini aspetta, tanto poi ti arriva il condono, credo che a questo punto è lo sfascio del sistema. Invece la nostra efficienza, la serietà dei miei concittadini fa sì che è giusto così, cioè così ci si deve comportare in un paese civile, non cercare sempre la scappatoia, fatta la legge, trovato l'inganno. Io non applicherò assolutamente nessun condono, chi ha preso una contravvenzione deve pagarsela. E poi non condivido il pensionato che diceva prima l'onorevole, non c'entra niente, cioè uno ha preso una contravvenzione, se la deve pagare vuol dire che ha fatto un reato, anche se minimo, e a questo punto non possiamo sempre far pagare ai furbi non far pagare e ai cittadini onesti far pagare, per cui questa è la linea che terrà la mia amministrazione. Io la ringrazio molto, sentiamo un po' gli ascoltatori che cosa ci dicono. Federico d'Alessandria, prego Federico. Buongiorno dottor Giannino, io vi ho chiamato perché penso di esservi d'aiuto, viaggiando moltissimo in tutta Italia, centro, nord, sud. Perché non abbiamo il coraggio, prima cosa, di dire che ci sono zone d'Italia più permissive, più lassiste? Prima cosa. Seconda cosa, il problema non è solo però la contravvenzione e la riscossione, è come e dove vengono elevate. Per cui, per quel che riguarda le contravvenzioni, io trovo che c'è un problema enorme, soprattutto sui limiti velocità, e sono i limiti velocità imposti in maniera assurda. Io, per dirle, sono adesso sulla diramazione Milano fra l'autostrada A21 e la A26, il raccordo di Santià, ci sono dei limiti di velocità 60 con la doppia corsia e l'autovelox. Lì ti sembra quasi che siano o per far cassa o, timore peggiore, il fatto che le amministrazioni che impongono i limiti di velocità abbiano paura di ritorsioni legali. Queste sono cose a cui bisogna porre un fine, perché poi ci sono i comuni più efficienti che fanno cassa, i meno efficienti che dicono vabbè, tanto chi se ne importa, mi veniva un altro termine. Comunque abbiamo il coraggio di dire che c'è meno efficienza. E poi una richiesta: riducete i termini di prescrizione da 6 mesi a 2-3 mesi, se no non si va avanti. La saluto e l'ascolto per radio. Allora, ad Alessandria, tanto per dire, le multe pro capite, questi sono sempre dati a 2007, sono pari a 43 euro, le multe pro capite, per una percentuale sulle imposte dell'11,65%, quindi insomma diciamo una percentuale che fa capire che dell'amministrazione fa abbastanza sul serio. Marco da Pisa, prego Marco. Buongiorno. Senta, io sono perplesso soprattutto al fatto che io vivo in un comune di quelli efficienti. Sì. E in questo comune efficiente io sono costretto. Mi dispiace è il caso di dire, mi dispiace per lei, però è anche il caso di dire bravi gli amministratori. Sono quelli che paga rate continuamente, rateizzo continuamente con trasmissioni vecchissime, perché mi arrivano delle cartelle. Ah, quindi lei è un pochino di scolaccio, mi pare di capire. No, non è che sono di scolaccio, è che vivo in uno di quei comuni dove si mettono a bilancio delle somme che derivano dalle contravvenzioni e poi ci si dà da fare per ottenere quelle somme. È chiaro, io le dicevo, ho dei bimbi alla scuola materna, pago dei contributi volontari ormai che coprono non solo più la carta fotocopie ma anche le coperture assicurative, tecnici del computer e la sicurezza interna delle scuole. Cioè, a fronte di questo il comune cosa sta facendo? Sta facendo praticamente un allargamento totale dei parcheggi diciamo a pagamento fino alle estreme periferie, come diceva l'ascoltatore precedente, sta organizzando delle vere e proprie trappole su strade dove assolutamente limiti di velocità a 40, cioè le dice chi è bravo poi ne approfitta, insomma. Anche mi sa, io ricordo in questo caso che a Pisa, dai dati che ho, 2007, multe pro capite siamo nell'ambito di 84,13 euro a cranio, cioè multe su imposte pagate siamo al 17%, quindi quando si ha un totale di multe che è pari al 17% delle tasse che si pagano nell'anno, stiamo parlando di un'amministrazione che ci va col pugno abbastanza pesante. Si è collegato con noi Luigi Scotti, che è assessore alla legalità a Napoli. Lo ascoltiamo spesso perché lo consideriamo una delle persone impegnate in una delle missioni più delicate d'Italia, per così dire, perché l'assessore alla legalità a Napoli ha bisogno di sostegno e solidarietà sempre, non è questione di questione di colore politico, che insomma è un impegno delicato. Allora, l'opinione dell'assessore alla legalità a Napoli, che sta dalla parte di chi ha la convenienza a fare il condono, o per carità il concordato ovviamente, perché diciamo non è molto efficiente nella macchina di riscossione, qual è rispetto ai temi che stiamo dicendo? Voi lo state facendo? Sì. Prima di tutto grazie alla solidarietà di cui ho bisogno per una città difficile. No, volevo dire che stamattina avevamo invitato il capo della Polizia Municipale anche, il quale ha detto: guardate, domani ho degli sgomberi un po' delicati perché devo andare di persona, quindi volevo dirglielo, perché questa, la solidarietà è sempre dovuta a voi, ripeto, e non mi importa di che colore politico sia l'amministrazione, prego. D'accordo, allora il condono, cioè il pagamento agevolato, non è un vero e proprio condono, pagamento anticipato perché si paga il minimo della sanzione. Come volete, però insomma per intenderci in una parola. D'accordo, e allora chiamiamolo condono. E si paga il minimo, previene la legge il minimo, senza interessi, senza spese, soltanto il 4% per Equitalia, che è l'ente riscossore. Allora, lo stiamo preparando, io penso che lo approveremo in giunta proprio in questa settimana e poi passerà al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. Dunque, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo calcolato tutte le contravvenzioni contestate entro il 31 dicembre del 2004, ma abbiamo eliminato nel frattempo le persone eventualmente decedute, i falliti, quelli che sono dei recidivi abituali e ai quali pure manderemo l'avviso, ma sui quali non calcoliamo il pagamento, perché sono dei recidivi abituali, non pagano mai. E allora è venuta fuori una percentuale di circa 300.000 persone. Posso dire, assessore, ma dove ci si iscrive all'elenco del recidivo abituale che non paga mai? Perché io ci vengo proprio di corsa. È l'Equitalia, ecco. Che è l'ente riscossore, il quale ha i ruoli, gestisce i ruoli, no, e qui fa le comunicazioni continue, fa il fermo dell'autovettura e tuttavia il pagamento non arriva. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando del condono delle multe elevate dai comuni, quindi codice della strada, fino al 31 dicembre 2004, vedendo quali le stanno adottando e quali no, questa facoltà introdotta l'estate scorsa per legge, e esaminando il paradosso delle diverse efficienze comparate delle amministrazioni comunali nel sapere riscuotere le contravvenzioni negli anni, e quindi l'effetto paradossale per cui a seconda di chi ti ha elevato una contravvenzione ti conviene, in parole povere, sfidando naturalmente il crescere della sanzione degli interessi legali negli anni, ma contare che maggiore è l'inefficienza dell'ente che ti ha elevato a contestazione, maggiore sarà poi alla fine la probabilità che si debba mettere in ginocchio, chiederti di patteggiare per avere il minimo, e a te sarà convenuto naturalmente non pagare. Lo so che è un ragionamento un po' improprio, però è vero che di fronte a un elevarsi negli anni molto consistente delle multe come canale di approvvigionamento finanziario dei comuni, che si vedono anche limitati i trasferimenti dal centro, e il cittadino, per così dire, si deve fare un conto di convenienza. Ce lo insegna la grande scuola di public choice, ma ce lo insegna anche l'esperienza in Italia, soprattutto a fronte di efficienze così sideralmente diverse da comune a comune. Avevamo interrotto l'assessore della legalità di Napoli, Luigi Scotti, che ci stava dicendo che a Napoli stanno esaminando appunto l'adozione nelle prossime settimane del provvedimento. Prego, assessore. Perché a me sembra vantaggioso portare avanti questo provvedimento. Prima di tutto ripuliamo i ruoli, facciamo pulizia completa. In secondo luogo eliminiamo queste vecchie contestazioni, perché abbiamo ancora contestazioni innanzi ai giudici di pace. In terzo luogo, per favorire l'utenza in un momento difficile per la economia campana e napoletana in particolare. In terzo luogo, perché così si incassa un po' di denaro e il comune di Napoli ne ha tanto bisogno. Abbiamo calcolato che se paga soltanto la metà degli interessati, il comune può incassare tra i 25 e i 30 milioni. Si prevede un pagamento entro il 31 maggio l'intera quota, o anche due quote entro il 31 maggio e entro il 31 luglio, con l'avvertenza tuttavia che chi avesse pagato una prima rata e poi non paga la seconda entro il 31 luglio perde tutto e ritorna, diciamo così, come era nella situazione originaria. Nello stesso tempo abbiamo detto che coloro i quali non aderiscono a questo pagamento agevolato, e allora, e ripulendo i ruoli, quindi avendo una maggiore efficienza in tutto il sistema di recupero di queste sanzioni, saremo abbastanza più severi, nel senso cioè che saremo più solleciti insieme ad Equitalia per recuperare le somme di coloro che, non avendo optato per il condono, sono ancora debitori nei confronti del comune, in modo tale da mostrare per un verso, insieme alla legge, che vogliamo favorire questo pagamento agevolato, però per coloro i quali non lo gradiscono saremo estremamente cattivi, diciamo fra virgolette. Devo dire che mentre l'assessore stava parlando io ho dato un'occhiata alla provincia di Napoli, anche in questo caso multe pro capite, multe su imposte, introita multe e così via, e la cosa che mi colpisce è come parecchi comuni legati, insomma, da molti anni, per noi che facciamo questo mestiere, alla geografia di fenomeni vastamente diffusi, dal degrado urbano fino alla criminalità camorristica molto ben presente e radicata, che hanno naturalmente una percentuale di multe pro capite pari a zero, e multe su imposte pari a zero, perché per esempio comuni come Afragola, non particolarmente appunto lontano dalle cronache di ambo i tipi che vi ho detto, dati 2007, 0% multe, 0 euro multe pro capite per intenderci, oppure altri come Caivano, 4 euro di multe pro capite, mi pare molto difficile, oppure ancora Casavatore, no, Casavatore siamo quasi a 28 euro, quindi siamo una percentuale elevata, Cimitile 0 euro, Crispano 0 euro, Ercolano 0,70 euro. È molto singolare la geografia, diciamo così, dell'entroterra napoletano in relazione a un tessuto urbano che non ha un grande sviluppo di strade tali qua, quindi ci sono fenomeni di addensamento di traffico tale per cui dovrebbe funzionare molto di più, ovviamente a occhio e croce, il meccanismo delle multe. Eppure, come vedete, da queste parti d'Italia tendenzialmente di multe pro capite non se ne paga, e quindi mi pare di capire che in quel caso sarà molto probabile poter contare su un condono in arrivo. Carmine da Salerno ci ha chiamato, prego Carmine. Buongiorno dottore, sarò brevissimo. Io la chiamo appunto da una realtà come quella di Salerno, che nel 2010 ha già in un certo qual modo stabilito di aumentare gli introiti per quanto concerne la riscossione delle multe, e questo purtroppo si riverbera in un problema abbastanza serio, che è anche la rilevazione delle sanzioni in quanto tali. C'è un arbitrio che ultimamente io, da legale di alcune posizioni individuali, riscontro una sorta di accelerazione nel processo di riscossione, che è determinato poi da una serie di sanzioni che a volte vengono combinate anche con una leggerezza e una superficialità non comuni. Per quanto concerne invece poi il passaggio del non riscosso dalla attività comunale a quella di Equitalia, registro un ulteriore buco di natura procedurale che credo i cittadini è giusto che conoscano, in quanto tenga presente che se il comune materialmente, e le dico questo passaggio è importante, se il comune materialmente non preavvisa bonariamente il cittadino della necessità di pagare comunque bonariamente la sanzione, se questo passaggio non avviene e la sanzione viene passata a Equitalia senza che questo passaggio avvenga, le posso assicurare che nel 100% dei casi la cartella da un giudice di pace viene assolutamente annullata, perché viene meno un elemento di natura procedurale che fa sì che molte di queste sanzioni, che potrebbero attraverso l'aggiunta di un passaggio semplicissimo che è quello di un avviso bonario, far sì che questo tipo di situazione non si venga a creare. Probabilmente lei faceva riferimento prima al comune di Vinzaglio, che è tra i più virtuosi in questo senso. Il segreto del comune di Vinzaglio è non mettere le SS per strada, ma fare in modo che i funzionari del comune conoscano per intero la procedura e facciano sì che non vi sia alcun buco tale da consentire, diciamo così, un annullamento della cartella attraverso i vari passaggi. Ma è l'avviso bonario, secondo le recenti sentenze che lei richiamava, decisione del giudice di pace, l'elemento fondante della procedura in assenza del quale... Paradossalmente, dottor Giannino, può sembrare irrilevante, ma è così. Io che spesso mi trovo a dover esaminare casi di questo tipo, le posso assicurare che il 100% dei giudici di pace, nel momento in cui rilevano questa obiezione, che è un'obiezione oltretutto verificata da tutta una serie di sentenze, non solo della Cassazione, ma anche di vari commissioni tributarie, le posso assicurare che questo elemento fa sì che già in premessa la cartella possa essere annullata. Ed è questo un fenomeno, caro dottore, che anche da quest'anno, anche con l'aggiunta della introduzione del pagamento del contributo unificato per quanto concerne i ricorsi al giudice di pace, che oscilla tra i 38 e i 70 euro al secondo del valore della causa, è un elemento che comunque andrà avanti e che comunque farà sì che tante amministrazioni non potranno ottenere esazione del credito in ragione della sussistenza di questo buco. Quindi non solo c'è inerzia da parte di molte amministrazioni, soprattutto del centro-sud, e lei ha fatto bene a citare la questione del napoletano, dove c'è stata la clamorosa questione di insolvenza del comune, che per assoluta inerzia non ha minimamente provveduto a emettere provvedimenti sanzionatori per circa 6 milioni di euro. È un fatto questo che ha avuto una evidenziazione alla fine del 2009, tanto da rinunciare bellamente a 6 milioni di euro di potenziali introiti a livello comunale in una struttura come quella di Napoli, che sappiamo essere una struttura che ha problemi di bilancio indifferenti. Allora, io naturalmente, con il ringraziamento a Guido Castelli, il sindaco di Ascoli, delegato ANCI, che ha tentato di tenere insieme questi aspetti differenziati dell'efficienza ma anche dell'inefficienza delle autonomie italiane, e il rispetto per Maurizio Leo, assessore al bilancio e deputato, assessore al bilancio del Comune di Roma e deputato, e per tutti gli amministratori che stanno adottando questo provvedimento, io devo tornare a dire: il paradosso per voi ascoltatori automobilisti è che vi conviene guardare bene chi ve l'ha fatta questa sanzione. E in conclusione, un tema di un altro paradosso. Sentite cosa ci scrive una lettrice, di cui io citerò solo le iniziali, perché come capirete dobbiamo rispettare il suo diritto all'anonimato, anche se lei invece si firma. Gentile Giannino, mi chiamo GC, scrivo da Ponte Cagliano in provincia di Salerno per esporre e chiedere indicazioni su cosa fare riguardo la pensione di accompagnamento negata a mia madre. Nel 2007 presentata domanda alla ASL di appartenenza senza essere visitata per constatare la sua condizione dopo emorragia cerebrale operata con esiti neurologici gravi, gli viene attribuito l'80% di invalidità. Per tale motivo presentiamo ricorso in tribunale tramite il CAF, il centro di assistenza fiscale del nostro paese. Si è andati avanti così con rinvii, finalmente la visita del medico del tribunale. A questo punto la situazione non ci appare molto chiara, in quanto l'avvocato del CAF ci dice che c'è da dare una somma di euro 1.500 al medico che avrebbe visitato nostra madre, altrimenti le sarebbe stato riconosciuto il 100% ma senza l'accompagnamento. Non abbiamo capito il perché. Che cos'è? Una tassa? Eppure il medico del tribunale riconosce il 100% senza accompagnamento. Ecco, finché si ricevono lettere di questo tipo, e ho rispettato l'anonimato della signora che si firma, che attestano come si chiedono tangenti per avere il rispetto di alcune questioni relative all'invalidità, alla previdenza nel nostro paese, vuol dire che siamo in un paese in cui purtroppo conviene al cittadino guardarsi dallo Stato invece che adempiere ciecamente a ciò che lo Stato ci chiede di fare. Bene, appuntamento a domani, la linea al Giornale Radio.